Storie italiane. Il nuovo anno. Era la vigilia di Capodanno e Maurice dormiva profondamente nel suo letto. All'improvviso qualcuno bussò alla sua finestra. Lui fece una smorfia. Ehi, Maurice, vieni fuori con me, dai, svegliati! Ma non è nemmeno ancora giorno ed è così freddo fuori. Oh, è già l'alba e abbiamo molto lavoro da fare. Lavoro? Tu chi sei? E che lavoro vuoi che io faccia a quest'ora? Sono l'anno nuovo e ho portato benedizioni per tutti. Ma sono troppo piccolo per tirare il carrello da solo. Non vieni ad aiutarmi? Ma è così caldo e accogliente nel mio letto. E io sono assonnato. Dobbiamo andare a quest'ora. Non possiamo aspettare che arrivi la mattina? Te lo prometto! Se vieni con me adesso, ti sentirai più felice di quanto tu abbia mai fatto! Dai, vieni con me! Va bene. Maurice si vestì rapidamente e uscì da casa dove il piccolo nuovo anno stava aspettando. Ehi, bel carrello! C'è scritto amore e gentilezza. È bello! Oh, vieni con me e ti sentirai ancora meglio. Mi aiuti a tirare il carrello? Certo! Quindi il nuovo anno diede a Maurice una delle corde per aiutarlo a tirare il carro e insieme camminarono lungo la strada attraverso la neve per raggiungere la casa di Joe. Questa è la casa di Joe. Lavora nel nostro giardino. Lui non ha figli e anzi non ha famiglia. Perché ci andiamo? Questo è esattamente il motivo per cui andiamo lì. È Capodanno. Non dovremmo far sentire un uomo importante? Nessuno si merita di passare il Capodanno da solo e triste. Questo è vero. Quindi cosa vuoi che faccia? C'è molta neve intorno a casa sua. Non potremo camminare lì. Tu spalla la neve mentre scarico alcune delle benedizioni per lui. Vediamo. Forse un nuovo cappotto e una bella sciarpa. Una calda cena di Capodanno e una ricca colazione. Un nuovo paio di scarpe dovrebbero andar bene, vero? Papà gli ha appena dato il suo vecchio cappotto. Ma a lui o a chiunque altro non piacerebbe un cappotto nuovo durante le festività? Sì, penso che i regali che hai scelto saranno perfetti. Così Maurice spalò la neve di fronte alla porta di casa di Joe, mentre il piccolo nuovo anno scaricava i regali e li portava a casa di Joe. Suoneremo il campanello? Oh no! Perché disturbarlo? Li lasceremo nel suo salotto! Quindi il nuovo anno salì dalla finestra e lasciò i regali sul tavolo di Joe. Quando Maurice lo vide, provò una specie di eccitazione che non aveva mai provato prima. Il solo pensiero di quanto sarebbe stato felice Joe a ricevere tutti i doni fece scoppiare di gioia il cuore di Maurice. Era inspiegabile, ma era così bello. Dopo, il nuovo anno si diresse verso la casa di Bessie. Questa è la casa di Bessie. Lei cuce per la mamma. Cosa le daremo? Bessie è malata da qualche giorno. Un bel mazzo di fiori e una cioccolata il giorno di Capodanno dovrebbero renderla felice. Che ne dici? Sì, sarà perfetto. Quindi il nuovo anno salì ancora una volta dalla finestra e mise un mazzo di rose, le più belle che tu abbia mai visto, e un'enorme cioccolata vicino al letto di Bessie. Maurice provò la stessa splendida gioia che aveva provato prima, solo al pensiero di quanti fiori e la cioccolata avrebbero reso Bessie felice. Era come se Maurice avesse ricevuto i fiori e la cioccolata. Il nuovo anno e Maurice vagarono per tutta la città, lasciando regali a tutti i tipi di persone. In qualche modo il nuovo anno sapeva esattamente quali regali dare ad ogni persona, ma non importa quanti doni lasciasse, il suo carrello non si svuotava mai. Come mai il tuo carrello è sempre pieno? Non importa quanti regali rimuovi da esso. Amore e gentilezza non diminuiscono mai. Non importa quanto ne distribuisci. Più amore e gentilezza dai, più aumentano e più gioia provi. Maurice, svegliati. Ah, cosa? È la mattina del nuovo anno. Svegliati, caro. Mattina del nuovo anno? Piccolo anno nuovo. Il carrello dell'amore e della gentilezza. Cosa? Buon anno, mamma. Più amore e gentilezza dai, più aumenteranno e più gioia proverai. Grazie per avermi svegliato, mamma. Vedi, renderò questo anno nuovo l'anno più gioioso di sempre. Maurice si vestì, prese i pochi soldi che aveva risparmiato dal suo salvadanaio e prese anche un cioccolatino che gli aveva regalato suo zio e corse fuori di casa. Non poteva permettersi di comprare un cappotto, ma con i suoi risparmi comprò uova e pancakes. Da una panetteria, corse a casa di Joe e bussò. Oh, buongiorno Maurice. Cosa ti porta qui? Oggi è il mio giorno libero, sai? Lo so, ma ti ho portato qualcosa. Una colazione di Capodanno per te. Pensavo che ti sarebbero piaciute alcune uova e una volta mi avevi detto che ti piacciono i pancakes con miele e cannella. Wow, adoro i pancake con miele e cannella. Grazie. Tu sei così premuroso. Sono passati anni da quando qualcuno ha pensato a quello che mi sarebbe piaciuto e me lo ha portato. Questo significa così tanto. Grazie. Il piccolo anno nuovo aveva ragione. Amore e gentilezza sono veramente le cose più felici del mondo. Successivamente, Maurice andò a casa di Bessie con il cioccolato e i fiori. Ehi, Maurice! Ciao, Bessie! Come ti senti? Devi essere abbastanza triste perché sei malata a Capodanno. Ah, non me lo dire. Ma mi fa sentire molto meglio che qualcuno sia venuto a trovarmi. Ti ho portato questi. È così dolce da parte tua, Maurice. Grazie mille. Felice anno nuovo, Bessie. E forse potrei fermarmi un po' in più per una partita a Ludo o qualcos'altro. Ah, sarebbe grandioso. È davvero noioso stare sdraiati a letto a non fare nulla tutto il giorno. Un gioco mi aiuterebbe davvero a guarire più velocemente. Bessie era così felice. E vederla felice rese Maurice ancora più felice. Da quel momento in poi, Maurice distribuì il suo amore e la sua gentilezza a tutti i suoi amici, e persino agli estranei, e per questo era il ragazzo più felice della città.